Marzia tacchetta, al nuovo giorno prence siego alle nozze, io te il consento. Intanto ad impedir di Cesare il ritorno mi porto in questo punto. Dei, che farò? Signore, Cesare è giunto. Torno a sperare. Dov'è? Udica appena entrò in denuno. Son di nuovo in pena. Vanne Fulvio al suo campo di Licheriera. In questo di non voglio trattar di pace. E qual cagion? Volte Cesare in un solo giorno a te se ne viene, e due volte è deluso. Non più, da queste soglie Cesare parta, io farò noto a lui quando giovi ascoltarlo. In ballo speri, si chiam porto non solo. E che farai? Il mio dovere. Ma tu chi sei? Io sono il legato di Roma. E ben di Roma parte il legato? Sì. Leggi prima che con le tiene questo foglio. E chi ne è più? Marzia, perché si messa? Non scherzare, che da sperar mi resta. Il senato accatone è nostramente render la pace al mondo. Ognun di noi, i consoli, i tribuni, il popol tutto. Cesare stesso il dittator la vuole, servi al pubblico voto e se ti opponi a così giusta brama, suo nemico la patria oggi dichiama. Chi dirà? Perché tanto celarmi il foglio? E non aspetto. Orbace, perché mesto così? Lasciami in pace. E nostra mente il dittator la vuole, servi al pubblico voto, suo nemico la patria. E così scrive Roma Catone. Appunto! Io di pensiero dovrò dunque cambiarmi. Un tale comando improvviso ti giunge. È ver. Tu vanne a Cesare. Dirò che qui l'attendi, che ormai più non soggiorni. No, gli dirai che parta, e più non torni. E il senato romano non è più quel di prima. Di schiavi è fatto un vilissimo gregge. E Roma? E Roma non sta fra quelle mura. Ella è per tutto dove ancor non è spento di gloria e libertà l'amor natio. Son Roma i figli miei, Roma son io. A tanto eccesso arrivo l'orgoglio di Catone. Oh, Fulvio, e ancora non conosce il suo zelo. E creda pure ciò che vuoi. Conoscerò fra poco se di romano il nome degnamente conservo. E se a Cesare sono amico o servo. Marzia, posso una volta sperar pietà? Sogli gli occhi miei del volo, per non aggiungermi affanni con la presenza tua. Dunque servirti ed è merito in me. Parto, ma penso che ne grave merini a quel despone un genitor crudele potrei giovarti. Non ti penso orvedere.